di e sono faccia a festa. La morte gioca, chi se importa, non ci riguarda, ma la morte verrà. La morte gioca, chi se ne frega, non ci riguarda, ma la morte verrà. L'amico Bille e i suoi sette compari muovono i fili della guerra. Lusso lo vedevano, non sentono gli spari, tanto non son loro a sporcarsi le mani. La morte gioca, chi se ne importa, non ci riguarda, ma la morte verrà. La morte gioca, chi se ne frega, non ci riguarda, ma la morte verrà. Dobbiamo uccidere il grande mostro, dobbiamo riprendere il potere. L'ora vieni e lotta con noi, sotto un solo grido. Oi, oi, oi! La morte gioca, chi se ne importa, non ci riguarda, ma la morte verrà. La morte gioca, chi se ne frega, non ci riguarda, ma la morte verrà. Saremo contenti